Sentite, d'ora in avanti niente più Guns N' Roses e Soup Dragons, capito? Vi voglio a dieta stretta di Soul. James Brown a colazione, Otis Redding a pranzo, Smokey Robinson a cena e Aretha per gli spuntini fuori pasto. Il Soul ha il ritmo del sesso e anche il ritmo della fabbrica, ha il ritmo dell'operaio, del sesso e della fabbrica. Il soul è musica che il popolo capisce. Certo, è musica semplice, ma ha qualcos'altro, qualcosa di speciale. È onesta, ecco, è sincera. Non è musica stronza. Ha il coraggio di dire che viene tutto dal cuore. Certo, c'è un sacco di musica che dà piacere, ma il soul dà più di questo. Il soul ti porta lontano, ti afferra per le palle e ti tira fuori dalla merda. Ciao a tutti, bentrovati a questa seconda puntata della seconda stagione di Soul Time, sempre qui su Radio Wombat. Quindi volevo iniziare questa seconda puntata con un pezzo prettamente garage. Come mai questo inizio? Perché è molto poco radiofonico, ma vi proporrò due pezzi identici. La prima nella versione probabilmente, anzi sicuramente più conosciuta, versione garage delle What 4, e dopo ci andremo ad ascoltare la versione soul del medesimo brano. What 4 è un gruppo femminile che ha inciso poca roba. Ci ascoltiamo quello che è il pezzo più conosciuto delle What 4, tra l'altro un pezzone incredibile di questa band completamente al femminile, composta esclusivamente da donne, e ci ascoltiamo questo pezzo del 1966 stampato su etichetta Columbia, risalente appunto al 66, arrangiato da Rick Shorter. Quindi ci ascoltiamo le What 4 con questo pezzone che si intitola I'm Gonna Destroy That Boy. Make that ball. The What For con I'm Gonna Destroy That Boy, brano del 1966. Vi dicevo, appunto, mi interessava questa versione di artista sconosciuto su etichetta Bianco Giallognola, su etichetta TM Music Incorporated, sotto etichetta della Monster Records. Su questa etichetta c'è una scritta 45 rpm, I'm Gonna Destroy That Boy. Non si sa chi la canta. La cosa molto molto interessante è che è una versione soul bellissima del brano che abbiamo appena ascoltato. Quindi ci andiamo ad ascoltare artista sconosciuta con I'm Gonna Destroy That Boy. Questa era la nostra cantante sconosciuta su etichetta TM Music, probabilmente registrato nell'area di Broadway, New York. Almeno queste sono le poche informazioni che si hanno su questo brano. Proseguiamo invece con un nome conosciuto. Passiamo a Fred Hughes, credo di pronunciarlo bene, spero. Fred Hughes, un cantante americano di soul e R&B, nato in Arkansas, ma si è trasferito molto molto presto a Compton in California, dove registrò per la prima volta un brano quando era studente alla Compton High School come membro dei The Cymbals nel 1962. Dopo aver inciso questo brano, Hughes passò alla BJ Records, dove iniziò a incidere proprio i primi brani che riuscirono ad entrare in classifica, come We Baby I Love You, che arrivò al 23° posto, e così via. Poi nel 1969 Fred Hughes passerà alla Brunswick Records. Quindi ci ascoltiamo una voce molto molto apprezzata in ambito Northern Soul, di cui poi ricordo un pezzo famosissimo come Baby Boy, che non abbiamo ancora qui ascoltato a Soul Time. Questa sera in realtà vi ho preparato un altro brano che si intitola Don't Let Me Down. Lui è Fred Hughes. Begging you one more time, don't go away. Begging you one more time, honey, stay, baby, don't back upon me. What could I do? If you should decide to leave me, could I turn to, honey, don't let me down. You know that I love you, I love you, I love you, so don't let me down. Before you walk through the door, won't you stay 1 minute more? So I can have a talk with you. I want you to know, huh, I love you. Don't let me down. Honey, I need you. So don't let me down. Won't you have mercy on me? Have a little sympathy, Lord. Don't let me down. Begging me one more time. Don't go away. Begging me one more time. Honey, stay. Baby, don't. Oh, don't let me down. You know that I love you. I love you. I love you. Fred Hughes con Don't Let Me Down. Proseguiamo con il prossimo brano e rimaniamo sempre nelle atmosfere northern. Ci andiamo ad ascoltare gli Inspiration, un gruppo che abbiamo già avuto modo qui ascoltare qui a Soul Time e sicuramente ascolteremo ancora. Questa volta ci ascoltiamo questo disco su etichetta Black Pearl del 1967, Black Pearl etichetta statunitense, e ci ascoltiamo il brano che si intitola Touch Me, Hold Me, Kiss Me. Loro sono gli The Inspiration. Yeah. di Inspiration, e dopo questo brano stracolmo di sentimento proseguirei con un brano di Ann Sexton. Il brano di Ann Sexton in questione si intitola You've Been Gone Too Long. Ann Sexton è una cantante soul americana che ha registrato principalmente negli anni 70, in cui il successo maggiore è stato You Are Gonna Miss Me, raggiungendo le vette delle classifiche R&B statunitensi nel 1973. Ann Sexton è una cantante originaria della Carolina del Sud, e tra l'altro è tuttora la cantante cugina di un certo Chuck Jackson. Influenzata poi dalla musica evangelica, ha iniziato a cantare nel coro della chiesa anche lei fin da piccola. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo brano di Ann Jackson, che tra l'altro è tornata, Ann Sexton, scusate, che tra l'altro è tornata nelle scene abbastanza recentemente, una decina di anni fa, nel marzo del 2007, in un festival in Germania, dopo un'assenza dai palchi di 30 anni. Quindi dopo 30 anni Ann Sexton si è rimessa a cantare sui palchi di tutto il mondo, fondamentalmente, principalmente in Europa e negli Stati Uniti. Ci andiamo ad ascoltare questo suo brano che si intitola You've Been Gone Too Long, Ann Sexton. Ann Sexton con You've Been Gone Too Long. Il prossimo artista che ci ascoltiamo è Van McCoy, e il brano che vi proporrò si intitola Sweet and Easy. Van Allen Clinton McCoy, noto semplicemente come Van McCoy, è nato nel 1940 a Washington ed è scomparso molto molto presto, nel 1979, ed è stato un grandissimo musicista, produttore discografico e cantautore. Nato appunto a Washington, si trasferì a Filadelfia, dove iniziò a scrivere le proprie canzoni. Il suo primo brano di successo pubblicato da altri artisti. In realtà è Stop the Music, interpretato dalle The Shirelles nel 1962. Dopo questo successo del 62 firmò per la Columbia Records, collaborando con Gladys Knight and the Pips, Barbara Lewis, Erma Franklin, Jackie Wilson e molti altri artisti. Poi appunto scomparve soltanto all'età di 33 anni, però lasciando dei grandissimi brani sia interpretati da lui che da altri musicisti e cantanti. Quindi di Bam McCoy ci ascoltiamo Sweet and Easy. Con questo brano strumentale, il cui titolo è un programma, sicuramente non è stato dato a caso, un brano strumentale decisamente sweet and easy. Proseguiamo con i The Falcons, Falcons gruppo di cui è stato membro anche il grandissimo Wilson Pickett, Eddie Floyd, Robert Ward e tanti altri. I Falcons sono stati un gruppo vocale americano rhythm and blues con grosse influenze soul, che si formarono i Falcons a Detroit nel Michigan nel 1955, iniziando subito a incidere per l'etichetta Mercury Records. Già nel 1956 ci furono i cambiamenti di componenti all'interno del gruppo e andarono poi a incidere per l'etichetta Lupine Records, incidendo il brano You Are So Fine nel 1959, e poi si ricorda anche nel 62 I Found a Love. Il gruppo stava registrando all'epoca sotto, diciamo, l'ala protettrice del produttore Robert West, che ha dato per quel periodo un suono molto gospel ai lavori del gruppo. ed è proprio in quel periodo, in realtà a cavallo degli anni 60, quindi in questo periodo qui, in cui Joe Stubbs fu sostituito dal grandissimo Wilson Pickett. Noi ci andiamo ad ascoltare questo brano dei The Falcons che si intitola I'm a Fool, I Must Love You, brano molto conosciuto dei The Falcons, probabilmente una delle loro hit più note al pubblico. Quindi ci ascoltiamo i The Falcons, I'm a Fool, I Must Love You. I Must Love You dei The Falcons. Cambiamo un pochino registro con questi brani molto intensi, però adesso passerei a dei suoni un pochino diversi. Ci andiamo ad ascoltare un pezzone delle Duets che si intitola Please Forgive Me. Le Duets erano composte da Barbara Livesey e Mary Frances Ace, due ragazze di Chicago che hanno registrato per diverse etichette come la MPAC, Wonderful, Marvelous Records, eccetera, eccetera. Questo è davvero un pezzo che a me piace tantissimo, quindi ve lo propongo. Si intitola Please Forgive Me, The Duets. Oh my God. The Duets con Please Forgive Me, classico brano per cui occorre decisamente alzare il volume. Passiamo adesso ad una figura molto molto importante in generale nella storia della musica. Lui è il grandissimo Johnny Watson, detto non a caso Johnny Guitar Watson, nato a Houston nel 1935 e scomparso in Giappone a Yokohama nel maggio del 1996. È stato un grandissimo cantante e soprattutto chitarrista statunitense che si è cimentato nel blues, nel rock, nel soul e nel funk. Nato appunto a Houston da una famiglia di musicisti, suo padre era un pianista che insegnò ovviamente fin da subito la musica al figliolo, che si appassionò ben presto alla chitarra e fin da bambino si appassionò appunto prestissimo al suono, in particolare della chitarra elettrica, influenzato da altri grandissimi chitarristi texani, uno su tutti T-Bone Walker. Anche suo nonno, che era un predicatore, era un musicista. Il primo album del nostro si intitolava Gangster of Love, pubblicato nel 1957 per la King Records, ma non fu particolarmente apprezzato all'epoca. Basta soltanto dire che Frank Zappa, nonostante questo insuccesso, lo citò come in assoluto uno dei suoi chitarristi preferiti. Quindi ci ascoltiamo il grandissimo Johnny Guitar Watson con questo pezzo che si intitola I Say I Love You, Johnny Guitar Watson. Get them women off your mind, if you wanna be man or mine. Lord, I tried just one more time, but you better start putting them monkey shine. Sometimes I wonder what made me do them wrong things I've done to you. You were sweet and loving in every way. I was a dirty, dirty dog to treat you that way. I say, but I love you. Yes, I love you. I say, I love you. Yes, I love you. Oh, girl, I love you. Yes, I love you. Yes, I do. Yes, I do. Get them women off your mind, if you wanna be mine or mine. Lord, I tried just one more time, but you better start putting them monkeys. And I know you're gonna reap just what you sow. I treated you wrong, but I won't no more, because you got me crying and I'm walking the floor. I say, but I love you. Yes, I love you. Whoa, girl. Yes, I love you. Whoa. Johnny Watson con un altro grandissimo brano. Il prossimo pezzo che ho qui davanti è un pezzo di Sam Fletcher su una bella etichetta gialla, Tolly Records. Il brano si intitola I Think It Over ed è un brano del 1964. Personalmente penso che abbia un giro di violini spettacolare. Quindi andiamocelo ad ascoltare, Sam Fletcher con I Think It Over. I think it over twice, I'd take some good advice if I were you. Girl, you say you love him, but tell me, are you really sure that you love him? Please don't be hasty. Whatever you do, I'd think it over if I were you. Oh, girl, I know a lot of things about him, and I just can't help feel you're better off without him. Hey, you've only known him 1 week or two, and I'd think it over if I were you. Yeah. I wanna say now, you can't come back if you go away now. I know I can't tell you just what to do. I'd think it over if I were you. Oh yes, I would. You ought to think about it, girl. You should stay now. But listen here, I don't want you to go away now. Arrangiamento di questo brano, secondo me, di un'eleganza infinita. Passiamo da un brano estremamente elegante ad un altro. Ci ascoltiamo l'oscuro Jack Montgomery. Jack Montgomery ha inciso pochissimi brani. Al momento se ne conoscono soltanto 4, e appunto non incisi per grandissime etichette discografiche. Vox Populi dice che in realtà ce ne sarebbero altri 11, almeno l'etichetta BMI ne indica altri 11, ma al momento non sono assolutamente ancora venuti fuori. Infatti questi 45 giri sono molto ricercati dai collezionisti e gli appassionati di questo genere musicale. Io vi propongo questo suo brano Dearly Beloved, e come vi dicevo un minuto fa, passiamo dalla grande eleganza di Sam Fletcher ad un'altra grande eleganza come questo brano Dearly Beloved. Lui è Jack Montgomery. To let you know things ain't getting any better. If you found somebody new, then there's nothing I can do. But if you're playing a hurting game, the hearts were the same. But now I see the light, and I'm sorry if I hurt you. See, questo era Dearly Beloved di Jack Montgomery. Anche questa sera la puntata sta volgendo al termine. Abbiamo il tempo per un ultimo brano e direi di concluderla in bellezza con un brano leggendario. Il brano è Get It Baby di Stanley Mitchell, un brano conosciutissimo e adorato da tutti gli ascoltatori e gli amanti del Northern Soul, giusto proprio un minuto di cenni storici sul grandissimo Stanley Rudolph Mitchell. Anche lui, in questa puntata ne abbiamo ascoltati più di uno di cantanti, come poi inevitabile che sia, di cantanti originari di Detroit, anche lui appunto nato nel 1935 nella città del Michigan. E iniziò anche lui a cantare in una chiesa evangelica ed a esibirsi inizialmente in chiesa. Nel 1955 formò già il primo gruppo, o meglio si unì ad un primo gruppo che erano i Cherokons. Dopo pochi anni, un paio d'anni, nel 57 li lasciò. Nel frattempo in realtà era passato agli Hamptons, quindi nel giro di due anni passò dai Cherokons agli Hamptons e nel 57 formò il proprio gruppo, Stanley Mitchell and Tornadoes. Poi nel 1968 registrò Get It Baby su etichetta Dynamo Records, che ci andiamo ad ascoltare. Colgo l'occasione per salutarvi e ringraziarvi dell'ascolto, come tutti i migliori DJ radiofonici fanno o dovrebbero fare. Vi rinnovo l'appuntamento a mercoledì prossimo alle 19. Potete ascoltare questa trasmissione in streaming dal sito Radio Wombat Firenze. Vi saluto e vi lascio con Stanley Mitchell, Get It Baby.